Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Tutti condannati con il rito abbreviato, in qualche caso a pene più severe di quelle chieste dall'accusa. Si è chiuso in tempi record il processo ai primi 8 imputati, colpevoli di aver sfruttato la prostituzione di 2 minorenni in un appartamento ai Parioli, quartiere Bene di Roma. La pena più dura, 10 anni e 60.000 euro di multa, è per Mirko Ieni, l'uomo che ha reclutato le due ragazzine, ne ha gestito lo sfruttamento e ha fornito loro le schede telefoniche per prendere appuntamento con i clienti. La mamma della più giovane delle Baby Squillo è stata condannata a 6 anni. Non avrà più la potestà genitoriale sulla figlia, la quale dovrà anche risarcire i danni in sede civile. In qualche caso il giudice ha dato una condanna superiore a quella chiesta dal pubblico ministero, ma questo poi le oggi motivazioni... parliamo di cuore di mamma, che è un argomento che di solito suscita sempre grandi sdilinquimenti da parte di chi comunque la mamma è sempre la mamma, in fondo la mamma è una sola, la mamma non si dimentica mai, la mamma è qualcosa di indissolubile, di intangibile, di intoccabile, anche se via via nel tempo abbiamo fatto alcune prese di coscienza sul fatto, sì, le mamme sono una gran bella cosa, non è che la mamma è un valore assoluto, non è che tutte le mamme, proprio il fatto di essere mamme, siano da santificare. Le mamme oggi sono responsabili in prima linea del massacro di molti figli, di figlie soprattutto, quando le mamme non mollano mai, quando le mamme sono eterne giudici, quando le mamme vogliono comunque mantenere viva quella sorta di senso di disperata invidia delle figlie che dopo prendono un'autonomia, ho amiche ultra quarantenni che ancora temono le mamme come le temevano quando erano bambine, che venivano colte con le mani nella marmellata, e questo non è possibile. Per oggi, se vogliamo, abbiamo un archetipo di mamma infame, terribile, capito, che tutti fare abbrividire. È la mamma del processo alle Baby Squillo dei Parioli, se ne è parlato in tutta Italia, un giro di ragazzine 14enni che si prostituivano con signori della Roma Bene, professionisti della Roma Bene, di cui sa molto poco ancora, pare una sessantina, interessati a questo giro, che ben consapevoli che a prostituirsi fossero bambini, anzi se le andavano a cercare, era un gadget subliminale che ci si scambiava con una strizzata d'occhio, sapere se andava con le ragazzine in quell'appartamento dei Parioli, che per chi non conosce Roma è classicamente il quartiere Bene di questa città, ancora all'inizio la crassa borghesia che tiene in mano le redini, il potere nascosto della città, magari un po' più decaduto, però sempre Parioli corrisponde a Roma Bene. La mamma di una di queste Baby Squillo, che al tempo dei fatti aveva 14 anni, sono state depositate le motivazioni della sentenza proprio qualche giorno fa. Alcuni giornali hanno anticipato le intercettazioni, il Tempo di Roma è uno di questi, ma anche la trasmissione Porta a Porta le ha trascritte, ve le faremo sentire tra un po', in cui viene fuori un quadro che sembra non appartenere alla nostra epoca civilizzata, nel modello occidentale avanzato che viviamo ognuno di noi, che rappresentiamo noi che parliamo alla radio, che scriviamo sui giornali. Sembra una mamma di quei romanzi d'appendice inizio 800 in cui c'erano le turpi situazione da bassi fondi suburbani, in cui povere bambine venivano sfruttate da matrigne, da mamme terribili, venivano mandate a mendicare, venivano mandate anche a offrire la loro innocenza a squallidi e ricchissimi signori con la gotta. Ecco, questo era un quadro ottocentesco. Oggi invece, alle nostre latitudini, nel fiore del fiore di quello che è l'esempio più crasso e rappresentativo della nostra civiltà, viene fuori una mamma che si preoccupa che la figlia lavori bene, porti a casa i soldi, sapendo che questo lavoro e questi soldi viene dal fatto che la bambina 14enne si prostituisse. Oh, dove stai? A casa di Mimmi, sto lavorando, che vuoi? M'ha chiamato la tua professoressa di latino. Voleva sapere perché non stai andando. Gli ho detto che non si sente bene. Mi ha detto, pensa che domani verrà a scuola. Allora tu che hai intenzione di fare? Dimmelo, perché sennò... E ci prendiamo in giro. Andiamo dagli insegnanti e glielo diciamo. Ma io voglio andarci a scuola, è solo che non c'ho tempo per fare i compiti. E vabbè, il tempo si trova, Michè, per fare i compiti. Ma quando, mamma? Quando esci da scuola, torni a casa. 2-3 ore, studie. Dopo non ce la faccio ad andare da Mimmi. Non ce la faccio se studio, perché dopo sono stanca. Mimmi, naturalmente, era l'appartamento dove lo sfruttatore di queste bambine procurava loro degli appuntamenti. Avevano vari clienti durante il giorno, in varie maniere, si erano a fare per questo lavoro. Ecco, sentendo questa registrazione, vedrete, questa mamma è un esempio a parte, è un'eccezione, è qualcosa che nulla a che fare comunque anche con la più superficiale maniera di vivere oggi la maternità. Ne siete proprio convinti? Non è che è la forma più esasperata, è il grado più avanzato di un atteggiamento generale che oggi fa cambiare notevolmente, ma bisogna vederlo con razionalità, con distacco, senza strapparsi i capelli. Noi osserviamo, vediamo e perlomeno ricollochiamo i nostri modelli su dimensioni più realistiche. Siete convinti che questa è una mamma, è un caso unico o in forma minore, in percentuale assolutamente non così orientata verso un atteggiamento criminoso? Un po' tutte le mamme oggi abbiano un atteggiamento diverso con le loro figlie. 800240024, che fine ha fatto il cuore di mamma oggi? Allora devi fare una scelta, puoi alternare i giorni. Qui una soluzione bisogna trovarla. Rifletti bene su questo aspetto della scuola, se no ti ritiro. Non mi puoi ritirare, mamma, non c'ho 16 anni, non lo puoi fare. A posto. Allora ci devi andare fino a che non... Ci voglio andare, però non voglio andarci senza aver fatto i compiti. Ecco, la mamma si preoccupa che la figlia vada a scuola, che la figlia studi e naturalmente organizza il suo tempo di modo che possa razionalmente occuparsi del dovere scolastico, anche perché è una ragazza minorenne. Se non andasse a scuola qualcuno magari chiederebbe di lei, chiamerebbe la madre e vorrebbe sapere le ragioni della sua diserzione scolastica. Allo stesso tempo sembra imperturbabile, implacabile sul fatto che debba fare questo tipo di lavoro. Nessuno chiama l'800240024 perché tutti stanno ad ascoltare per sapere come va a finire, ma la storia è già finita, non c'è esito, la sentenza è già stata, poi ricorreranno in appello, chiederanno pene più lievi, ma è dato di fatto comunque che una madre sapesse che la figlia si prostituisse e che una madre non avesse nessun problema perché la figlia si prostituisse. Ecco, avete esempi nella vostra esperienza personale di maternità corrotta rispetto al modello tradizionale, o ancora siamo ben ancorati a questo esempio iconografico di bambine sorridenti, di bambine felici che hanno in mano la bottiglia dell'acqua minerale, fa fare tanta tanta pipì e quindi corre garrula a liberarsi la vescica perché la mamma le ha fornito l'acqua diuretica al punto giusto? Perché noi viviamo altalenanti tra un modello ormai totalmente fittizio, superato, corroborato comunque tutto ciò che tende a mantenere un'immagine immutata del rapporto madre-figlia, e poi alcune realtà che valgono non soltanto come unico esempio negativo, come unica pietra di paragone rispetto al modello tradizionale. Siete sicuri che nella mamma dei Parioli sia concentrato tutto il male possibile nel rapporto tra madre e figlia, il resto vada tutto bene, non ci siano comunque delle circostanze intorno che facciano pensare qualcosa sta cambiando in questo rapporto? Perché se questo fosse avvenuto nel quartiere periferico di una città dove già la marginalità, i problemi sociali imperino, e aveva comunque mille spiegazioni, ma che avvenga nei Parioli, nel posto in cui maggiormente sembra che l'umanità non abbia problemi. Dario, buongiorno. Buongiorno, salve. Senta, niente, mi fa piacere che chiami un uomo. Io sto sgolandomi da 20 minuti per dire diteci qualcosa. Sembra che tutte le mamme siano perfettamente tranquille e contente, che vada tutto bene, che una volta ingabbiata la mamma dei Parioli non nulla metterà più a repentaglio questa figura immacolata. Prego, Dario, scusi. Comunque io sono d'accordissimo con lei che questo probabilmente è l'estremizzazione di un atteggiamento già esistito, continuamente, di una madre, non è una cosa singola finita a se stessa. Però volevo dire, la differenza tra questa madre e quella invece che spinge la figlia al figlio del benestante, al figlio dell'avvocato perché ci sono i soldi, per non avvenire con più soldi anche se è un coglione, lei la vede molto molto distante. Cioè, voglio dire, i soldi che la bambina guadagnerebbe per questa madre qui sono a breve termine, ma la madre che poi spinge la figlia a sposare non un un operaio normale, ma il figlio dell'avvocato, il figlio del dottore, il figlio con... Che un po' è sempre esistito, le mamme hanno sempre chiesto che le figlie facessero un buon matrimonio. E allora da qui è uguale la cosa che lei dice, a parte lo scandalo, è l'estremizzazione di un atteggiamento... Lei quindi dice un atteggiamento, è un'estremizzazione di un atteggiamento che tradizionalmente hanno sempre avuto nelle famiglie, in civiltà arcaiche decideva la famiglia che dovesse sposare la figlia perché faccia parte dell'addensarsi dei patrimoni, di piccoli interessi di paese, andando avanti nella civilizzazione hanno avuto un pochino più di autonomia le figlie, ma non sempre dappertutto, perché vede il primo... Squallore. Sono d'accordo, è un grande squallore quello che è successo, ma io vedo squallido anche l'altra cosa. Questo allora, se io posso dire qual è la domanda principe che rende infelici molte signore che conosco, che ormai vanno quasi per la cinquantina e ancora hanno mamme vitali che le distruggono, è il fatto che queste donne non possano impugnare la loro autonomia verso le madri. Le madri comunque imputeranno sempre alle figlie non essersi trovato un buon partito. Se la figlia è una abile professionista che ha le sue storie, la sua vita e si gestisce le cose, quando vede la madre deve stare a testa bassa con la cenere sul capo. Perché? Perché ancora non è stata capace a trovare il buon partito, e quello suicidario ha un fondo di saggezza. Questa è l'estremizzazione, è la massima produzione di quella sorta di rapporto deleterio di madri che vorrebbero comunque sistemare le figlie. Enzo, come la pensa? Enzo, buongiorno. Enzo, vediamo se si accorge Enzo che lo stiamo chiamando. Sento soltanto io lo sto chiamando, Enzo non sento. Vabbè, Enzo chiuso, ci sta chiamando Enzo, vuol dire siamo pieni di escort e ci meravigliamo. Sono escort le madri, le figlie cresceranno piccole escort. Quindi attribuisce una sorta di passaggio del testimone professione materna. Non è esattamente così. Non si tratta. Tornato Enzo? No, non si tratta esattamente di questo. Marina, buongiorno. Buongiorno, io volevo semplicemente ricordare che c'è un romanzo Brava. Di Moravia, La Romana, dove tratta proprio di questo argomento. E lì pure parla dei parioli praticamente, e parla di una donna che lavorava presso una famiglia appunto di persone benestanti e spingeva la figlia appunto a prostituirsi. E questo è il romanzo di Moravia. Dimenticato, perché La Romana, appunto. Moravia ha avuto un successo anche esagerato fino agli anni Ottanta, poi a un certo punto se lo sono dimenticato. Però La Romana è vero, una storia. Parlava proprio di questo argomento. La madre, appunto, che aspettava addirittura la figlia, la spingeva e se guadagnava poco la rimproverava. Diciamo che c'è tutto un filone narrativo, io sono partito più lontano dal romanzo d'appendice, ma è giusto, lei ci dà giustamente, di madri che spingono i figli, di madri mezzane, però non immaginavamo che nel contesto comunque assolutamente non marginale di una famiglia che vive a Parioli potesse accadere questo. Melog, cronache meridiane. Ogni tanto davo i soldi a mamma, quindi aiutavo anche la mia famiglia. Mamma non chiedeva, ma io cercavo di aiutarla. Quando le davo i soldi li prendeva, anche se non pensava fosse giusto. Ma lei pensava io spacciassi e comunque mi rimproverava e mi diceva che non me li ero guadagnati. Io non ho preso i soldi da mia figlia, non sapevo nulla degli appuntamenti. Non ho saputo gestire questa situazione. Non ho denunciato perché non sapevo con chi aveva a che fare Michela e avevo paura per lei. La volevo fermare in tutti i modi. 800240024, siamo partiti dall'analisi delle della rilettura delle intercettazioni presa da Porta a Porta della madre di una delle bambine che si prostituiva ai Parioli, per capire quanto poi questo modello di madre mezzana, di madre che cerca a tutti i costi di trarre profitto dalla figlia, dall'avvenenza della figlia, anche contro ogni legge umana perché la figlia sia bambina, quanto questo in realtà sia un sintomo estremo di un atteggiamento diffuso di cambiamento, di mutazione della figura della madre, che è sempre stata ricoperta da angelicate citazioni. Ha chiamato un'ascoltatrice poco fa citandomi il romanzo La Romana di Moravia, che è una situazione non proprio corrispondente, la mamma che costringe la figlia a diventare amante di un gerarca fascista, c'è questo cedimento, cioè Lollobrigida lo interpretò al cinema, c'è questo cedimento e lei diventa amante del gerarca fascista, naturalmente non si sposa più l'uomo, il ragazzo che amava, e poi farà una vita dissoluta. Ma parte da questa ragazza che faceva la modella a Via Margutta, perché allora il corrispondente di Farsi un Book dal fotografo di Grido, che poi è quello che manda in giro le foto e crea il preziario della prostituzione infantile, era quello di andare a Via Margutta, il quartiere degli artisti, dove queste ragazze facevano le modelle, e probabilmente poi il gerarca l'aveva adocchiata. Alice, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Niente, io volevo intervenire dicendo che secondo me certe mamme non sono mamme, diciamo, nel senso lato in cui noi lo intendiamo, ma semplicemente fattrici, cioè generano da accoppiamenti, così possono essere anche amorevoli all'inizio. Perché le altre mamme generano per spirito divino, come fanno? Sì, ok, ci sono mamme che desiderano proprio la maternità, altre invece secondo me è un po' capitato, e poi generano... Vabbè, diciamo che c'è una percentuale, diciamo, abbastanza ampia di figli che vengono perché vengono, non è che uno sta sempre lì con l'orologio a decidere il giorno. No. Poi, come dire, arrivati a una certa età quasi si dimenticano del fagottino che avevano appena arrivati dall'ospedale, e lo ritengono una persona su cui non è che si può, come dire, avere un senso di protezione, ma quasi nel caso della mamma dei padri. Ma io trovo giusto che prima si dimentichino che vada protetto col fagottino, è meglio vivere al fagottino, questo è il mio punto di vista, però. Io sì, certamente, però a 14 anni non è ancora arrivata, secondo me, sì, ma una cosa essere ossessiva, una cosa mandarle a battere. Vorrei capire qual è la via di mezzo laica e intelligente oggi per stare vicino a una figlia. Non, io ho citato esempi di madri assassine delle figlie che a 80 anni ancora guardano la figlia e dicono: è la gonna troppo corta perché non è sposato quel bravo ragazzo. La figlia ormai già è passata alla cinquantesima storia d'amore, però deve stare zitta e fingere magari di essere ancora con la ragazza allibata. E mamme come questa dei Parioli, che cinicamente teneva l'elenco delle marchette alla figlia e stava attenta che le versasse nell'Iban giusto quando aveva i soldi. Sentiamo Silvana, buongiorno. Buongiorno, come stai? Vada al punto, io sto bene. Allora, scusi, io ritengo che questa non è questione di avere il desiderio di avere figli oppure no, è questione di avere buon senso oppure no. Queste donne sono persone, sono mamme, dove vogliono a tutti i costi avere tutto e subito, e purtroppo glielo insegnano anche le figliole. Non importa come sia una certa cosa, l'importante è che sia subito, perché la mamma si è giustificata: pensavo che spacciasse, non l'ho voluto denunciare perché avevo paura per lei. Ma se veramente era una mamma che aveva a cuore, sì, come se lo spacciare poi fosse meno grave, esatto, che far marchette, cioè... era meglio che non andare a battere. Ma se veramente lei aveva paura per la figlia perché le poteva capitare qualcosa, bastava che andava in una normalissima stazione di carabinieri o polizia e diceva: ragazzi, la segna è questa, forse sta prendendo una strada che io non riesco a fermare, mi date una mano? Ma lei non l'ha fatto. Non a caso è stata condannata, ci ha messo 10 minuti il giudice a decidere, non è che... Lei non l'ha fatto, vuol dire che lei era cosciente di quello che stava facendo la figlia e l'appoggiava al 100%, lei come mamma. L'altra mamma invece, quella che diceva: ma io non pensavo, io non credevo, ma non diciamoci stupidate, no, non è possibile che arriva a casa una figlia con una donna firmata, una scarpa firmata, un vestito firmato, un qualsiasi cosa firmato che costa tanto, una ragazzina di 13-14 anni, e tu non ti chiedi da dove arriva. Me l'ha data la mia amica. Ma cosa stai dicendo? La tua amica non può avere un'economia così importante da regalarti qualcosa. Quindi diciamo che tutti hanno avuto gli occhi chiusi, li hanno tenuti ben chiusi e vogliono tenerli ben chiusi, fanno finta di niente, poi davanti a un giudice: ah, però io non sapevo, io non vedevo. Diciamo che allargherei lo spettro anche agli insegnanti che lo vedevano, agli amici, ai genitori degli amici. Oggi vedo ragazzine acchittate in maniera esagerata rispetto al medio tenore che può avere la famiglia, quindi evidentemente uno qualche domanda dovrebbe farsela. Grazie. Armando, buongiorno. Salve, premetto che è meglio non generalizzare. No, io non generalizzo, faccio domande. Parlo in generale, perché ci sono mamme all'antica e mamme ultramoderne, tra virgolette, diciamo così. Però il modello culturale che è stato inculcato negli italiani da 20 anni a questa parte, e mi risulta che una volta vidi una trasmissione in cui una coppia di genitori, non solo la mamma, solo una coppia di genitori, che avevano portato la figlia a un concorso per modelle, gli chiesero: ma lei cosa pensa di Berlusconi che incontra, vorrebbe fare sì che sua figlia fosse al posto di Noemi, la famosa sì, Noemi, sì, lì, sì. E sa cosa risposero entrambi i genitori? Ma perché no, magari capitasse a noi una fortuna del genere. Ecco, esattamente come la mamma della romana che Moravia scrisse, ambientato negli anni 30. Francesco. Sì, buongiorno dottore. Dunque, io faccio un'analisi, ahimè purtroppo derivante dall'esperienza professionale. Sono un avvocato penalista, vivo a Roma e mi sono occupato in prima persona di casi molto simili a quello delle baby squid. Riassume una battuta, sono proprio alla conclusione purtroppo. Vediamo se riusciamo a capirli in una battuta. In una parola, i genitori negano. Anche davanti all'evidenza lo status dei figli, manca assolutamente qualsiasi tipo di controllo, è un problema della generazione precedente a questi ragazzi e quindi della generazione dei quarantenni e dei cinquantenni a cui appartengo anche io, madri antagoniste alle figlie se non complici, amiche, e padri assolutamente disinteressati, perché queste bambine avevano anche dei padri oltre che delle madri. Allora Francesco, lei con la sintesi che è capace a fare un avvocato mi ha dato lo spunto per una prossima trasmissione: madri antagoniste e padri inesistenti, sarà il prossimo argomento. Grazie, alla prossima.